Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema di stretta attualità perché noi ci scontriamo spesso con questo tema in tanti modi, in tante cose, soprattutto nelle ultime settimane se ne è parlato molto. Parliamo di sondaggi, sondaggi quelli che vogliono capire come si comporta la popolazione, che giudizi ha, come voterà, come potrà esprimere le proprie opinioni. E parliamo di sondaggi con un maestro dei sondaggi, con Renato Mannheimer. Buonasera Mannheimer. Buonasera, grazie. Renato Mannheimer ha scritto un libro, Demo Scoppiati, con un tanto di punto di domanda, l'Italia vista dai sondaggi. Mannheimer non ha bisogno di presentazione, da 40 anni cura, dirige, ha creato anche società di ricerca in questo ambito. E ha scritto molto e scrive ancora sul giornale, e in questo libro mette un po' in rassegna sia la validità dei sondaggi sia dà alcuni giudizi su come si comportano, su che cosa pensano gli italiani. Ma iniziamo prima dal tema principale. Mannheimer, valgono ancora i sondaggi? Dipende, qui bisogna entrare nel merito. Prima di tutto bisogna distinguere tra sondaggi previsivi del comportamento e i sondaggi in generale sull'opinione pubblica. I sondaggi in generale sull'opinione pubblica funzionano benissimo, con grande soddisfazione, anzi approfondiscono i temi molto meglio e sono usati anche dal marketing, dalle aziende. Quindi i sondaggi sui consumi, i sondaggi sulle prevalenze, sul fatto se uno preferisce andare al mare in montagna. Quella roba lì funziona ed è provato dal fatto che le aziende che stanno attente a come spendono i loro soldi continuano a commissionarli perché gli dice davvero. Veramente il sondaggio aveva detto anche gli umori della Brexit, quelli prima, lo vediamo dopo, adesso sono pentiti, veniva fuori una grande indecisione, pentimenti eccetera eccetera. Forse sarebbe stato meglio fare un sondaggio invece del referendum, dico io, perché no, tira fuori meglio l'animo profondo della gente. Ecco, però su questo fronte alcune settimane fa, appunto, sulla Brexit c'è stato un fallimento dei sondaggi. Sì, anche perché forse i sondaggi hanno usato troppo. Questo è il mio parere. Io da tanti anni non faccio più sondaggi previsivi perché lì il tema è diverso. Lì si tratta non tanto di esaminare gli atteggiamenti della gente in un certo momento quanto di prevederli, e ci sono degli aspetti tecnici di difficoltà. Per esempio, in questo piccolo libro Demoscopiati, H. Book editore, sottolineo come in Italia il 30% della gente decide l'ultima settimana e il 10% in cabina, proprio nella cabina elettorale. È molto difficile, 10% è tanto, è difficile. Certo. Ecco, lei racconta di un sondaggista che in una telefonata dice: ma lei che come voterà tra un mese? E chi è dall'altra parte dice: ma lei dove andrà al cinema tra un mese? E lo decido al momento. Con mia moglie, bravo, ecco, accurato lettore, bravo, grazie. E sì, decido all'ultimo minuto e neanche loro sanno cosa votano. Poi ci sono degli aspetti tecnici, c'è un margine di approssimazione nei sondaggi che per campioni tipicamente di 1000 casi è attorno al 2-3%. Quindi è difficile, questo ci fa pensare che quando ti dicono alla televisione che quel partito è aumentato dello 0,2% sono grandi balle, fa piacere al pubblico televisivo, certo. È un modo di intrattenere, ma non è vero niente. E poi ci sono un'altra serie di problematiche tecniche che rendono molto difficile, per esempio in Inghilterra i miei colleghi sembra che abbiano usato prevalentemente internet, che costa meno, ma ecco, però toglie molte persone che non hanno internet. Ecco, per esempio, si dice che i sondaggisti fanno i sondaggi per telefono, ma fanno i sondaggi sul telefono fisso, che ormai lo usano pochissimo. No, questo non è vero. In Italia il 30% della popolazione non ha il telefono fisso, ha solo il cellulare, specie i giovani, e nei campioni grosso modo il 40% è composto da cellulari. Resta il fatto che l'incidenza dei telefoni fissi è molto forte e anche questo ti tira via. Adesso, per rimediare a questo, si fanno dei sondaggi mixed, cioè un po' con internet, che è la cosa che i giovani prediligono. I giovani rispondono anche più volentieri su internet che per telefono, e un po' per telefono. E quindi si mettono insieme queste cose, però c'è anche un elemento che nel libro emerge, il fatto che per esempio i sondaggi politici, che sono quelli che forse interessano molto, hanno anche si scontrano anche col fatto che la gente si occupa meno di politica, la gente interessa meno la politica. Alla gente la politica non interessa più. perché sembra, e questo è grave, che non riguardi la propria vita quotidiana, che riguardi solo una più o meno ristretta elite che discute tra se stessa a Roma e non se ne occupa. E infatti sui temi politici c'è sempre grande disinformazione. Il fatto è che rispetto ai tempi quando ero giovane io non abbiamo più l'appartenenza di partito. Una volta l'identità di partito, io votavo sempre lo stesso partito e la votavo come sinonimo di fedeltà, di identità. Ecco, questa cosa non c'è più e con questo è diminuito anche l'interesse verso la politica vista come estranea alle proprie cose. Ecco, ma in che cosa credono gli italiani? Questo libro è anche un libro che entra nel merito dei valori, delle preferenze, di quello che gli italiani pensano sulle varie istituzioni. In che cosa credono e come è cambiata negli ultimi anni la fiducia verso le istituzioni? Dunque, la fiducia verso le istituzioni è profondamente diminuita. Abbiamo che più o meno poco più del 10% si fida del Parlamento. Se uno pensa che 9 italiani su 10 non si fidano della massima istituzione rappresentativa democratica che abbiamo, è molto grave. La fiducia nel governo è sul 30%, la fiducia nel Presidente della Repubblica è diminuita, la fiducia nell'Unione Europea ancora di più, perfino la fiducia nel Papa, che pure è alta, è diminuita, per non parlare della magistratura. Cosa vogliono gli italiani? Se tu gli domandi di cosa dovrebbero occuparsi alla fine questi politici, quali sono i tuoi problemi più importanti? Fino a poco tempo fa il problema più importante era l'occupazione. Ciascuno di noi ha o se stesso o un cugino che è in cerca di lavoro. Allora, l'occupazione era la prima cosa. Adesso sorge molto forte l'elemento della sicurezza. Ci sentiamo insicuri per vari motivi. Ci spaventa l'immigrazione, siamo sempre più anti-immigrati, nel bene o nel male. Ci spaventa la criminalità, anche al di là dei dati veri, la sicurezza sta diventando un tema importantissimo. Ecco, c'è anche il fatto che gli italiani emergono dai sondaggi come un popolo un po' conservatore, non vogliono le novità, non vogliono le grandi opere, non vogliono gli inceneritori, i termovalorizzatori, o meno non li vogliono vicini al casa loro. Sì, la sindrome NIMBY, not in my backyard, cioè non nel giardino vicino a casa mia, è molto diffusa in Italia come peraltro in altri paesi, cioè tu vuoi i cambiamenti, basta che riguardino gli altri, anche se sul piano politico noi siamo ormai da quasi 30 anni attratti dalle novità. Quando arrivò la Lega, molti votarono la Lega come novità, poi Berlusconi riuscì a far darsi un'immagine di nuovo e di diverso dai politici tradizionali straordinaria ed ebbe un successo enorme. Adesso il Movimento 5 Stelle ha quest'area di novità e tanti italiani, come abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative, li votano finché dura l'immagine di novità. Quello che volevo osservare è che questo libro, oltre ad avere una parte narrativa in cui si espongono appunto gli interessi, le intenzioni, le opinioni degli italiani su tanti elementi, ha anche una parte di tabelle in cui queste stesse opinioni vengono espresse appunto in percentuali e in forma appunto anche grafica molto visiva e molto evidente. Ma Naimer, che cosa l'ha sorpresa di più scrivendo questo libro? Qual è l'elemento che pensava che non fosse così? Ma francamente quasi nulla, ormai abituato da tanti anni a queste tabelle. A me piacciono molto le tabelle, ma anche ai giornalisti piacciono molto. Forse da una parte la caduta di fiducia verso l'Europa, una cosa così forte, era veramente difficilmente da attendersi. L'Europa che era ai primi posti, noi eravamo il paese più europeista di tutti e siamo diventati quasi quello meno europeista, forse meno europeista di tutti. E poi anche questa cosa dell'atteggiamento degli immigrati verso gli immigrati che continua a diminuire. Una volta, se domandavi una frase un po' provocatoria, in un paese cattolico come il nostro dobbiamo accogliere tutti, almeno metà della popolazione era d'accordo, e questo scende di mese in mese in mese in mese. Io ho pubblicato anche degli aggiornamenti al libro che è appena uscito. Continuiamo ad avere un atteggiamento anti-immigrati molto netto e crescente che non so dove ci porterà. È un atteggiamento in fondo di chiusura, un po' di ritorno al privato rispetto alla grande solidarietà pubblica. Assolutamente, di ritorno al privato e di voglia di cavarsela da soli. E poi è un atteggiamento di paura di fronte, metà della popolazione pensa che a parità di capacità in un posto di lavoro comunque deve essere preferito un italiano. Adesso andremo verso in autunno ad altri sondaggi, soprattutto verso il referendum. I politici guardano troppo i sondaggi in questa fase, negli ultimi tempi? I politici guardano i sondaggi tantissimo, ma lo guardano male. Io ricordo tanti politici per cui ho fatto i sondaggi, la prima cosa che ti chiedono è: ma quanto è la mia popolarità? Non tanto cosa pensa la gente, cosa vuole, che differenze ci sono tra nord, sud, maschi, femmine, belli, brutti, ma solo se stessi. Sì, cioè... anche nel libro racconta di un sindaco di un paese che dopo aver fatto appunto dei sondaggi di merito sulle cose che vogliono i cittadini, poi quello che gli interessava è: sarò rieletto o no? Sì, non era Milano, un era grande paese. Mentre in altre circostanze guardano i politici in altri paesi i sondaggi nel merito, e tutte le aziende li guardino nel merito, i politici tendono a guardare proprio solo se stessi e quindi sbagliano, si fidano del primo dato superficiale. I sondaggi servono ad andare a fondo a cogliere gli umori della gente. Grazie Mannheimer, grazie di questa carrellata sui sondaggi. Speriamo che i politici li guardino, che sappiano fare una politica che sappia riconciliare anche i cittadini verso la politica, che è una cosa importante. Grazie molte, buonasera. Grazie Renato Mannheimer, abbiamo parlato del suo libro Demoscoppiati, l'Italia vista dai sondaggi, edito da Jacabook, sono 174 pagine per 12 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.